italiana, sai la copere sta chica, sembra una bimba, ma ora quei gringo mi sparano. Andale, andale, andale, mi madre che grida al telefono, chiamame, chiamame, chiamame. Mi sono innamorato di una chica loca, la classica bambina con cui non si gioca. Mi avevano avvertito e sono stato idiota, con quel vestito bianco mi sembrava innota. Pensavo avrei vissuto bene assieme a lei, ma per stare con Linda servono i cojones. Quando vorrei dormire all'alba delle sei, Linda mi tiene sveglio, niente buenas noches. Dovrei lasciar la porta solo guai, ma ne sono schiavo, penso solo a noi. Quando il fine settimana ci uniamo tutta la mañana, ci uniamo tutta la mañana, sognando di scappare prima o poi, di partire per non ritornare mai e lasciarci tutti dietro. Hasta luego. Me gusta bere tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana. Soy loco per esta chica, sembra una bimba, ma ora quei gringo mi sparano. Andale, andale, andale, mi madre che grida al telefono, llámame, llámame, llámame. Per te farei di tutto, mami, stai conmigo. Io che ero un bravo cico, ora sono un bandito. So che finirò male come ogni tuo tipo, che sia finito in cello oppure desaparecido. Ora che per la calle parlano di noi, se sento le sirene corro come Pablo, come ogni uomo immerso nei pensieri suoi. Non parlo molto ma più sto con te più hablo, con te neanche del diavolo tengo miedo. Ma ora quei gringo mi sparano dietro e mi gridano cabron, stai fermo te mato. E adesso che mi hanno beccato, mi sa che sono fatto per davvero, chiuso dentro queste sbarre senza amigos e senza dinero. E ancora te quiero. Me gusta bere tequila e matar mi vida con Linda fino a mañana. Soy loco per esta chica, sembra una bimba, ma ora quei gringo mi sparano. Andale, andale, andale.